Buongiorno a tutti, eccoci qui ritrovati tutti quanti con il Teatro Valle Occupato. Abbiamo iniziato con questa musica apocalittica perché è stata una settimana abbastanza apocalittica questa qui, è successo di tutto, meteoriti che crollavano dal cielo, non abbiamo più il governo religioso, non abbiamo più il governo politico, fulmini che si abbattevano sulla chiesa, pare che il mondo stia andando allo sfacelo. E allora, che cosa facciamo? Noi qui al Teatro Valle Occupato ci siamo chiusi in questo bunker e cerchiamo così miseramente di resistere alla fine del mondo, fondamentalmente. Siamo in quest'epoca apocalittica e, diciamo, in epoche apocalittiche abbiamo bisogno di oracoli, no? Abbiamo bisogno di oracoli. E quindi noi al Teatro Valle Occupato abbiamo questo personaggio che ci viene a trovare. Vuoi giornaliero? Un momento, adesso ti introduco. Aspetta un secondo, perché la radio ha dei tempi ben precisi, caro giornaliero. Non so chi di voi conosce il giornaliero. Probabilmente qualcuno a Roma l'avrà visto, perché l'abbiamo ritrovato spesso in varie parti della città. Non so chi tempo fa, se qualcuno si ricorda, chi frequentava Bibbia. Vuoi giornaliero? Chi frequentava Bibbia, appunto, se lo ricorda molto bene. Questo, come si può dire, questo clochard che va in giro per Roma e si piazza di fronte, riesce ad avere la capacità di piazzarsi sempre davanti ai posti più frequentati, e quindi in questo caso ormai è da quando abbiamo iniziato l'occupazione che lui ci viene a trovare sistematicamente ogni giorno, e ogni giorno lui crea una piccola opera d'arte e ci accoglie sempre con questa domanda che è appunto... Giornaliero, praticamente sì. Tu... No, giornaliero, noi vorremmo chiederti, perché i matti spesso hanno la risposta, no? Che cosa possiamo fare in quest'epoca che sembra un'epoca in qualche modo destinata alla fine? Tu allora prendi questo, no? La radiolina, la porti a Campo dei Fiori e ti metti lì, ti metti con un banchetto, puoi fare un po' come ti pare, no? Metti lì, metti 20 persone, li metti intorno, 20 persone, gli dici, senti, oh, ma porta pure, ognuno porta altre 20 persone. Allora tu ti metti lì con la radiolina, metti lì 20 persone, porta altre 20 persone. Allora tu gli dici, andiamo tutti quanti sotto a Montecitorio. E che fate a Montecitorio? Montecitorio, andiamo lì, dice, oh, noi abbiamo la radiolina e potremmo, cioè, puoi mettere lì, puoi mettere lì, siamo 20 persone, più porta altre 20 persone, sono 500 persone, capito? E allora 500 persone con una radiolina sotto Montecitorio? Sì. Ce l'hai una moneta? No, mi dispiace, qua stiamo messi malissimo. Ciao, giornaliero! Grazie, giornaliero. Ciao, giornaliero. Grazie, ciao, per i tuoi consigli, così in qualche modo pregni di senso. Boh, vabbè. Comunque, parliamo di apocalisse, e allora niente, diciamo che intanto noi vi regaliamo questo pezzo dei Baustelle, dei quali peraltro io ho visto il concerto ieri sera, bellissimo, è l'ultimo disco, capolavoro, il concept album sul tempo. C'è un pezzo che proprio fa il caso nostro, perché in tema di apocalisse si intitola Maya colpisce ancora. Il nostro mondo più funesto apparirà, e sarà caro il disinganno quando tutto crollerà, e la ricerca del passato e le speranze nel futuro falliranno fatalmente, quindi quale mai potrà essere l'ambito del gioco la città in cui far crescere la rosa, percepirne l'entità, il giusto tempo, l'esistenza, l'epopea meravigliosa in cui cullare la mimosa, ovvero la felicità. Sono millenni che da scimmie cazzeggiamo col potere, col mito dell'avere, amori e religioni, e non cambiamo mai banchieri e operazioni, studenti ed operai. Povero pusher che da solo se ne va, con i proventi del lavoro verso la celebrità, e la ragazza di Lambrate si lamenta a voce alta del suo seno da rifare, con i soldi che non ha. Da 20 anni da farfalle ci ostiniamo ad apparire, fondiamo sul piacere, su ottusi chiuse dittature, la nostra civiltà, fiammiferio splendore, che differenza fa? Ave Maria, che nessun figlio piangerai, e che ti erediti la crisi d'Argentina e di Uruguay, e dalle antenne dissecrate li cominci a decifrare i segnali ineluttabili del vuoto che verrà. Abbiamo sempre praticato sospensioni del dolore e modi di scappare, invece è esistenziale la mia bestialità. Siamo tornati dopo la profezia dei Maya cantata dai Baustelle. Abbiamo Valerio che ci racconterà un pochino in questa epoca apocalittica, ecco, un'altra apocalisse che sta accadendo in Sicilia, a Messina, nella fattispecie il Teatro Pinelli. A Messina, in una città che nello stesso giorno in cui era San Valentino, nello stesso giorno in cui a Roma presentavamo la conferenza stampa per la Commissione Rodotà, arriva 8 camionette della polizia, una motovedetta della Marina Militare, la Guardia di Finanza, un elicottero e sgomberano il Teatro Pinelli occupato. Ed eravamo rimasti l'altra volta a Radio Onda Rossa con il collegamento con Giulia Giordano, detta anche concitata da Messina. Ma come sta adesso? Come sta adesso Messina? Cosa succede? Ok, oggi sono un po' meno concitata perché ho la bronchite, a furia di fare questi azioni all'aperto mi sono beccata la bronchite. In sostanza adesso il Teatro Pinelli occupato si è convertito al momento in Teatro Pinelli itinerante, per cui stiamo facendo una serie di azioni in giro per la città, in luoghi dismessi, in luoghi storici di Messina, che però dal nostro punto di vista è di tutta la città, diciamo, non sono abbastanza vissuti, abbastanza vivi. E stiamo facendo queste azioni in cui continuiamo la programmazione del Pinelli proprio come quando eravamo dentro, per cui abbiamo fatto già due azioni, una in una galleria che è Liberty, che da più di 50 anni era chiusa alla cittadinanza per un contenzioso tra privati e pubblico, e lì abbiamo fatto uno spettacolo erostrato di Jean-Paul Sartre con Alessio Bonaffini. Poi ieri sera invece abbiamo continuato il nostro cineforum in un'altra galleria, la Galleria Vittorio Emanuele, che pur essendo aperta di fatto non è sfruttata secondo noi nel migliore dei modi, perché ci sono soltanto pochi bar, una discoteca che tra l'altro è stata bruciata, invece è un posto magico, un posto fantastico della città di Messina, che potrebbe essere attraversato, non soltanto attraversato, ma vissuto nel pieno anche appunto con attività culturali. E stasera faremo un'altra azione che però appunto non posso dichiarare esattamente dove, però abbiamo invitato tutti i cittadini a venire davanti al cinema Savio, il teatro Savio, e poi da lì andremo insieme in questa nuova ZTL, zona temporaneamente liberata. E com'è stata la reazione? Com'è stata la reazione di Messina, dei cittadini, dei media? Perché comunque abbiamo letto un sacco di notizie, insomma. Raccontaci. Esatto, la reazione è ottima anche perché i cittadini sono veramente arrabbiati, anche perché in questi giorni l'autorità portuale ha cominciato i lavori, hanno cominciato i carotaggi fuori e oggi anche dentro il teatro, per cui adesso hanno anche violato i sigilli proprio l'autorità portuale prima ancora di noi, per cui adesso diciamo la rabbia aumenta il desiderio di riprendersi il teatro. Nel frattempo queste ZTL ci servono anche per appunto parlare a più cittadini possibili, continuando appunto a fare assemblee ogni giorno, continuare diciamo a tenere la tensione molto alta. E poi ovviamente noi non perdiamo di vista la fiera, tra l'altro in questi giorni hanno già buttato giù dei vecchi padiglioni proprio per dare un segno alla città che finalmente stanno facendo questi famosi lavori di manutenzione di cui parlavano da anni, però di fatto non si erano mai visti. Loro, l'autorità portuale, il presidente De Simone, continua a dire che non è a causa della nostra occupazione, ma che loro avevano già preventivato questi lavori, ma di fatto in 20 anni di gestione dell'autorità portuale non si era mai fatto nulla, nessuna manutenzione, per di più i padiglioni continuavano ad essere affittati, nonostante non sono a norma, affittati anche a prezzi esorbitanti. Giulia, io leggevo su giornali che di solito un po' vi attaccavano, come la Gazzetta del Sud, che non sempre aveva degli articoli a vostro favore, che con questa ZTL avete dimostrato che voi fate l'interesse della città, riaprire dei luoghi, quindi insomma c'è stata una reazione positiva. Sì, esatto, però bisogna anche dire che la Gazzetta del Sud diciamo è la voce dei massoni di Messina, e che in particolare Lucio D'Amico, questo giornalista che scrive sempre contro di noi, in passato ha scritto articoli intitolati "L'anarchia non può governare la città" oppure "La Repubblica del Flex", quando l'unico flex che noi abbiamo visto finora è stato quello della Digos e della polizia, che l'altro giorno sono entrate in teatro per sgomberarci. Per cui qui stiamo parlando di poteri veramente forti, che sono molto uniti qui, ed è veramente difficile, anche quando la cittadinanza è molto coinvolta, di fatto poi tutto viene distorto da un unico quotidiano, che è la Gazzetta del Sud, che è in mano a dei massoni, per cui è molto complesso far uscire bene le notizie, nonostante ci siano anche giornalisti all'interno della Gazzetta che ci seguono, a cui purtroppo non viene dato lo stesso spazio di Lucio D'Amico, che tra l'altro è anche il direttore della televisione locale più seguita, RTP. Ok, Giulia, grazie. Non mollate, chiaramente, bocca al lupo per stasera e viva le ZTL, viva il Teatro Pinelli Itinerante. Grazie, ciao. Grazie. Speriamo presto di poterci collegare di nuovo dal teatro. Ciao. Sì, assolutamente. Ciao Giulia. Ciao concitata. Va bene. E questa, ecco come la gente reagisce, diciamo, all'apocalisse. E visto che c'è l'apocalisse, e visto che c'è la crisi, e visto che qui nessuno più ha soldi, noi purtroppo, nonostante siamo a Radio Onda Rossa, abbiamo avuto l'esigenza di trovare uno sponsor per continuare a fare questa trasmissione. E quindi niente, ci troviamo costretti adesso a mandare il primo spot promozionale. I soldi sono importanti. I soldi sono importanti, purtroppo. E ci vediamo dopo lo spot. Come si arriva alla giostra? Devi andare al Circo Massimo. Là c'è la fionda. E ti lancia direttamente verso fuori, verso il teatro di paglia, la giostra. C'è un teatro di paglia che ti accoglie con delle balle che riusciranno ad attutire il colpo. Villaggio La Giostra, queste erano le indicazioni per arrivarci. È un posto meraviglioso, un posto dove si è immersi nella natura e si vive in abitazioni totalmente biologiche e naturali, e si pratica il naturismo e si è a contatto con l'aria aperta, un posto dove poter così rientrare in armonia e in contatto con la natura. Avremo altri messaggi promozionali, questo vi ricordo, questo era il messaggio che così dava le indicazioni per arrivarci. Ora invece parliamo di una cosa seria, a parte scherzi, di quello che è accaduto al Quarticciolo. Sapete che lì è in atto da un po' di tempo una protesta, diciamo una protesta a favore del teatro del Quarticciolo, Teatro Biblioteca Quarticciolo, che insomma adesso Simona ci racconterà sì. un po' il suo destino e quello che soprattutto è accaduto proprio pochi giorni fa. Sabato sera. Allora, brevemente appunto riepilogo un po' il fatto che questa protesta è cominciata da quest'estate, che stiamo combattendo per far cadere questo bando che troviamo abbastanza ingiusto, perché poco trasparente, perché non permette poi a chi lo vince, tra l'altro non si capisce poi come quali saranno i parametri per cercare il vincitore, soprattutto non si sa ancora qual è la commissione, ma cosa ancora più grave è un bando che si basa sulla poca trasparenza e anche sul fatto che il vincitore, diciamo, vince chi fa il biglietto più basso. Questo ci sembra veramente allucinante. E quindi questa protesta che noi stiamo portando avanti per farlo cadere da quest'estate, dopo vari appelli che sono usciti su vari giornali, Repubblica, Paese Sera, anche firmati e controfirmati da moltissimi artisti del territorio, non sono stati minimamente ascoltati e anzi ci vengono anche a dire: ma voi non ci avete mai detto nulla. Quindi è evidente che loro stanno continuando a fare i loro giochi, quindi ormai il 27 si saprà il vincitore, di chi gestirà il Quarticciolo e di chi gestirà Torbella Monaca. A questo punto noi diciamo: i giochi sono fatti, però non ci fermiamo con la protesta. E perché? Perché vogliamo cercare in qualche modo di forzare quello che vuole portare avanti il bando, e quindi vogliamo cercare che veramente ci sia una partecipazione del territorio, vogliamo poter migliorare le condizioni di chi eventualmente vincerà questo bando, che se si tratta di associazioni del territorio si troveranno in gravi difficoltà nello gestire questi spazi, perché le condizioni economiche sono veramente miserrime. Hanno a disposizione 200.000 euro per poter fare una programmazione di un anno e mezzo, ecco. Quindi è chiaro che faranno dei biglietti, appunto, non possono fare i biglietti di un certo tipo, quindi in questo modo le compagnie non potranno mai essere pagate con un cachet, ma dovranno andare come al solito ad incasso, e quindi chi ci rimette poi alla fine sono sempre e sempre gli artisti. Quindi noi questo bando, la gestione di questi due teatri andrà avanti per un anno e mezzo, e dopo un anno e mezzo che succede? Non si sa, si ricomincia tutto quanto da capo. Quindi noi ci siamo uniti, siamo sia i cittadini del settimo e dell'ottavo municipio, ci siamo uniti, vogliamo scrivere un manifesto per la gestione di questi teatri e vogliamo farci ascoltare per fare in modo che questi teatri vengano gestiti nelle migliori condizioni possibili. Quindi continua la protesta. Sabato scorso davanti al Quarticciolo abbiamo protestato con la Titubanda, con altri artisti, con i Giambè che sono venuti appunto per dimostrare insomma l'attaccamento, il fatto che vogliono che questo teatro rimanga legato al territorio, eccetera eccetera. È stato molto partecipata, i cittadini fuori erano almeno un centinaio, mentre a vedere lo spettacolo non c'era nessuno. Siamo entrati, perché all'inizio non volevano farci entrare neanche per farci vedere il teatro, siamo entrati e abbiamo fatto... Spiega questo momento. Sì, c'è stato un momento in cui noi abbiamo chiesto di entrare semplicemente per farci un giro in teatro, e ci è stato impedito perché noi non potevamo entrare. Abbiamo detto che era un teatro pubblico, come una piazza pubblica, quindi non capivamo il fatto di non poter entrare. Hanno un po' forzato e allora anche noi abbiamo forzato. Siamo entrati con tutta la titubanda, 20 elementi con i fiati, con tutti e 100 i cittadini che stavano fuori, abbiamo riempito il teatro e al buio c'è stato questo bellissimo concerto della Titubanda e poi siamo usciti sentendo il vuoto che rimaneva dopo che siamo usciti e quelli due, tre spettatori che erano andati a vedere lo spettacolo, tristissimi, che entravano. Gliel'abbiamo suonata. E niente, quindi la protesta continua, noi vi chiediamo di stay tuned perché perché non ci fermiamo e vogliamo appunto cercare di migliorare le condizioni di questo bando, visto che non si può più bloccare. Allora aiutateci a fare in modo che chi poi andrà a gestire questi teatri potrà farlo nel miglior modo possibile. Ora vi dedichiamo una canzone. Anzi, dedichiamo una canzone a Dino Gasperini, che è il nostro assessore alla cultura e che per febbraio si è anche, insomma, è diventato anche ha preso anche un po' il ruolo di direttore artistico. Infatti lui è stato capace di fare la programmazione del Quarticciolo per il mese di febbraio. Eh sì, questa praticamente è una canzone che poi avete cantato pure l'altra sera, no? Sì, abbiamo cantato l'altra sera, abbiamo cantato anche, sì, esatto. È tutta improvvisata, eh? Tutta improvvisata. Io ho una chitarra acustica qui fra le braccia che è anche mezza rotta e quindi una corda suonerà un po' scordata. Io canterò stonata. Ecco, la sentite? La sentite? La chitarra scordata? La sentite la chitarra scordata? Vuoi prendere la tonalità, cara l'ho Simona, presa, visto l'ho presa. Che non abbiamo fatto le prove? Dino. Dai. Ricordiamo a tutti che questa l'hai scritta te, questa parodia, diciamo. Facciamo così, faccio un giro di introduzione e poi tu parti. Ok, vai. Odino di, Odino Dino da, Odino Dino che regala qua e là. Con il comune che non sa l'arte, cos'è, s'attacca la gis come un prêt-à-porter. Le chiavi ce le ha la grande società che tutti conosciamo bene, Zetema. Che tra musei e bar, spazi e festival c'è mano in mano tutta la città. Ma caro Dino, noi se siamo rotti al cazzo, perché le cose ve le fate ad intralazzo. Non conosciamo niente prima, non traspare decisioni, ci ritroviamo da un giorno all'altro li padron. Sta giunta la democrazia, non sai che è, se mangi il pubblico e se beve il cittadino, e il comitato di indirizzo che non c'è. Oh Dino, Dino, che bastardin che è. Dino, Dino, Dino, bello Dino, vieni Dino, Dino. Fermo con l'osso, molla l'osso Dino, molla, molla, molla. Buonasera assessore, allora volevamo farle alcune domande rispetto a questo bando, anche un po' rispetto a quello che sta succedendo qui a Roma. Ecco, questa casa della drammaturgia, della nuova drammaturgia, no? Questa casa che è nata questa estate così un po' abbastanza dal nulla, senza sapere chi l'ha deciso, come, perché, come sta andando avanti anche questa casa della drammaturgia, perché non abbiamo mai sentito, letto, visto un testo. No, ci dica. Ecco, io la ringrazio per avermi fatto questa domanda, perché questa domanda è veramente molto importante, perché io e il sindaco Gianni Alemanno abbiamo lavorato duramente, perché per noi la cultura è un elemento molto importante di questa città e quindi abbiamo deciso di creare questa casa della drammaturgia e insieme alla casa della drammaturgia apriremo prestissimo, oserei dire, la capanna dell'architettura, creeremo il tinello della matematica, abbiamo già aperto il salotto della pittura e dell'acquerello. Sì, però in realtà in questa casa della drammaturgia che cosa deve avvenire esattamente? Perché è stata aperta questa casa della drammaturgia? La ringrazio per questa domanda. La casa della drammaturgia, ecco, la casa della drammaturgia è soprattutto un grandissimo spazio espositivo, perché Roma, dovete sapere, è piena di strutture espositive. Beh, no, che fra di loro non comunica. Non è uno spazio espositivo, il Maxi un grandissimo spazio espositivo dove tutti potranno esporre le proprie opere. Perché l'arte e la cultura è importante. Va bene, grazie. Passiamo alla seconda domanda, ecco, rispetto proprio a case. La casa dei teatri invece è un'altra casa che è sempre stata istituita da lei. e che ecco, questa casa dei teatri cos'è? È un comitato di indirizzo, un comitato di indirizzo che dovrà decidere poi di tutto il circuito dei teatri che sono stati aperti ultimamente, appunto Villa Torlonia, il Samorante, insieme ai teatri di cintura. Sì, no? Sì, esattamente. Ecco. Il comitato di indirizzo. Il comitato di indirizzo è molto importante perché Roma sappiamo tutti che ha il grande problema che non si trovano mai le strade, che quando uno chiede un'indicazione spesso si fornisce un'indicazione sbagliata, spesso addirittura ci si ritrova davanti alla persona che ti dice mi dispiace, io non abito in zona. Allora gli indirizzi in realtà, sono... Il comitato di indirizzo serve a prendere delle decisioni rispetto a questi otto spazi. Assolutamente, perché i numeri civici, tra l'altro, poi non si sa mai quando quello che sta a destra, quello che sta a sinistra, il pari e il dispari. Quindi è importante avere un comitato di indirizzo al quale il cittadino si può rivolgere, perché anche questa è cultura. Perché quindi, quando per sapere le strade. La comunicazione fra i cittadini, che quando uno si ferma, abbassa il finestrino per chiedere un'indicazione, ovviamente l'indicazione deve essere precisa e circostanziata soprattutto. Quindi io e il sindaco Gianni Alemanno abbiamo deciso di creare questo grande comitato di indirizzo che sarà un grande spazio espositivo dove ma in realtà non è uno spazio espositivo, è un comitato di indirizzo, è un gruppo di persone che decidono. Comunque va bene, è stato molto chiaro. Lei non mi faccia domande invece tendenziose. Volevo comunque sapere, ecco, un'ultima domanda: questa società di servizi che adesso si occuperà anche di questi due teatri, oltre ad occuparsi dei vari musei, di altri spazi, insomma è una società che si appoggia al comune, che gestisce parecchi soldi pubblici, noi ci chiediamo ma perché deve adesso gestire i soldi pubblici anche di questi due teatri, ecco, questa società Zetema, ci racconti un po' perché avete fatto questa scelta? Beh, io capisco, qui tocca un tasto dolente, cara signorina, perché io e il sindaco Gianni Alemanno ci siamo interrogati a lungo se era il caso di intraprendere questa iniziativa. D'altra parte, l'altro anno col Pescara aveva fatto grandissime cose e niente, si sperava tutti quanti che si potesse ripetere quest'anno alla Roma. Purtroppo Zeteman ha gli anni che ha, insomma, no, mi scusi, il calcio forse che si pratica... sta confondendo, io non ho Zeman, l'ex allenatore, no. Zeteman, Zeteman è un grandissimo allenatore, ha tutta la mia stima. No, Zeteman è... Ma non è un grande spazio espositivo, purtroppo, perché i grandi spazi espositivi a Roma sono diciamo no, il punto centrale del nostro problema. Zetema, Zetema, la società di servizi che adesso ha in mano le chiavi di questi due teatri, non di Zeman. Zeteman avevamo dato le chiavi della squadra, ma purtroppo ci ha deluso. Ma niente, si ricomincia, manca ancora 3 mesi alla fine del campionato, cara signorina, sia calma, non mi faccia domande tendenziose, non mi metta in difficoltà, perché io so voi comunisti spesso come fate, voi lì al teatro. La ringrazio, assessore, grazie, è stato veramente molto molto gentile. Arrivederci. Odino, che regala qua e là. Con il comune che non sa l'arte cos'è, s'attacca all'Agis come un prêt-à-porter. Le chiavi ce le ha la grande società che tutti conosciamo bene, Zetema, che tra musei e bar, spazi e festival c'ha in mano tutta la città. Cinzia, scusa, vieni qui. Senti, allora prendi carta e penna, adesso buttiamo giù la stagione del teatro argentino, adesso te lo risollevo io questo teatro. Allora Cinzia, prendi la penna, scrivi. Allora la faccio io faccio il cartellone del teatro argentino, leviamo l'avia e ci mettiamo. Allora apriamo la stagione, è fortissimo, ce l'ho io, uno spettacolo bellissimo, uno spettacolo di drammaturgia contemporanea, apriamo con il nuovo monologo del Cipolla. Bellissimo, che parla dei problemi della gente comune, degli autobus che non arrivano, del traffico della città. E poi vediamo, poi che possiamo farci. Poi ci mettiamo dopo lo spettacolo del Cipolla, ci mettiamo un grande incontro con Alvaro Vitali, che ha lavorato, un grandissimo attore che ha lavorato anche con Fellini. Scrivi, Alvaro Vitali lo chiamo io, ce l'ho io il numero. E poi ci mettiamo una bella figa, va. Ieri andando a fare 2 passi in un percorso di fede, mi chiedevo, posso smaltire i peccati con i giochi? Ma sono troppi peccati mortali che ho collezionato. Per esempio, ho fatto adulterio, mentito, rubato. Continuamente pisello toccato, fin dall'età di 6 anni ero già condannato. dopo vado all'inferno, nel fuoco eterno. Gli onanisti, i comunisti e Gengis Khan. Chi l'avrebbe detto che sarei finito dannato? Ma come ti muovi, ti imbatti in un peccato? Credi in un gruppetto di dei e poi li nomini in vano. Per Giove, per Diana, per Marco, per Vinci, pippi e ti dimentichi di santificare. Non onori i papi, non onori i namami. Accidentalmente assassini la gente. Dopo una cena elegante all'improvviso formichi. Crema protezione totale contro il fuoco infernale. Non c'è, non c'è. Tutti nudisti, ustionati, dannati forever and ever. Oh yeah. Teatro Valle, invece di andare all'inferno, che cosa si fa prossimamente? Facciamo finalmente un laboratorio di radio, Luft, con Roberto Pacidalò, che abbiamo il piacere di avere qui in linea con noi. Buongiorno Roberto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, ecco, quindi ci stavi ascoltando per caso? Purtroppo no, perché sono in strada, sono nella neve di Milano, che sembra una storia di Rodari. Comunque sono nella neve e quindi non sono online. Sentivamo ecco. Già un po' il giudizio del maestro. Ma quale maestro? Ma lasciamo perdere. Ma stiamo comunque, ci stiamo cimentando. Chissà cosa succederà in questo laboratorio, appunto, che sarà ospitato dal Valle, ospitato, organizzato, fatto insieme al Valle e curato in particolare da te, che permettimi di dire due parole, di presentarti. Roberto Pacidalò è un compositore, regista, artista visivo, direttore artistico della compagnia Giardini Pensili, e che da tempo si occupa di nuovi media, in particolare di drammaturgia dei media. Insomma, Roberto, io volevo chiederti, questo laboratorio come sarà articolato? Cosa farà? Qui c'è un programma bellissimo che leggo velocemente. Gli argomenti saranno la radiofonia, il nuovo radiodramma, la web radio, la radio dal vivo, radio e telematica, network projects, il rapporto con il testo, il soundscape, software e hardware, live radio, live media, spazio radiofonico come luogo di performance. Quest'ultima mi piace molto, lo spazio radiofonico come luogo di performance. Insomma, partiamo da Luft. Intanto il titolo, Luft, da cosa viene? Allora, Luft è il mio, cioè un progetto del 2013, quindi un progetto che intendo portare avanti in più sedi, lavorando su residenze, laboratori e presentazioni anche in forma di performance. Nasce da un lavoro che ho fatto lo scorso dicembre a Berlino, che si intitolava Luftkrieg, quindi guerra aerea, Luft vuol dire appunto aria, e l'idea è di fare proprio una serie di progetti, dei quali il primo sarà proprio al Teatro Valle Occupato, una serie di progetti dove da un lato lavoro sui miei progetti personali, sul futuro spettacolo, ma dall'altro c'è proprio un laboratorio che si svolge con un gruppo di persone che serve a creare, diciamo, a dare una base comune di conoscenze rispetto al nostro medium prescelto, che è la radio in questo caso. Quindi si possono fare delle performance via radio? Ma guarda, la mia posizione, io in questi ultimi anni ho lavorato molto soprattutto con Arte Elettronica, che è un festival che si svolge a Linz ogni anno, festival di arte, tecnologia e società, e con la radio austriaca, ecco, la radio austriaca è stata un po' la mia scuola, e per noi, parlo al plurale perché sono sempre stati progetti collettivi, di gruppo proprio, per noi la radio non è semplicemente una scatola dalla quale escono suoni, parole, musica, ma è uno spazio, cioè la radio è uno spazio vero e proprio. Per cui nel momento in cui la si considera uno spazio, cambia completamente la percezione. Per cui la radio è, per esempio, dal vivo, cioè la radio dal vivo è una cosa molto importante perché è molto antica, è la radio degli albori, ma così antica da risultare contemporanea. Siamo così abituati al disco che va alla registrazione, quando invece la radio dal vivo è una cosa delle potenzialità incredibili. Insomma, la radio è uno spazio. Sì. Federico annuisce da vecchio lupo di Radio Onda Rossa e gioisce di queste tue affermazioni. A me in particolare mi è piaciuta molto un titolo che tu hai dato a un tuo progetto, che è l'ADA, l'arte dell'ascolto, perché forse la radio può veramente far lavorare sull'arte dell'ascolto, è vero? Sì, diciamo che il titolo viene da Harnein, questo teorico tedesco, insomma, quindi è proprio una citazione paro. L'arte dell'ascolto è un festival che si è svolto a Rimini casualmente durante tutti gli anni 90, che cercava di lavorare proprio così, cioè la radio come spazio di un ascolto immersivo molto più ampio di quello che possiamo immaginare. Tra l'altro, se pensiamo alla radio oggi, cioè noi siamo nella radio, la televisione è obsoleta, la radio è il presente e il futuro, e tutto quello che ci circonda è trasmissione in radiofrequenza, incluso il telefono da tasca che sto usando per parlare con voi. Benone. Quindi siamo immersi in una continua trasmissione del segnale. E questo, riflettere su questa cosa molto semplice in fondo, può servire a immaginare degli scenari diversi che vanno al di là delle consuetudini rispetto a come si pensa la radio oggi. Ecco. Bene, allora essendo noi in pieno flusso di una trasmissione, abbiamo i tempi ben cadenzati, lascerei qualche informazione che sicuramente verrà riportata sul sito del Teatro Valle, www.teatrovalleoccupato.it, di cui narreremo anche in diretta quello che succederà durante il laboratorio Luft sulla radio. Su Facebook c'è un evento che si chiama Luft, Laboratorio Radio, e quindi ci aggiorneremo 26, 27, 28 febbraio in questi pomeriggi radiofonici del Valle. Ormai il gruppo che parteciperà penso che tu lo hai quasi chiuso, quindi le iscrizioni temo che siano esaurite, però sono esaurite oggi, vero? A mezzogiorno sì, di oggi? Diciamo che chiudono oggi le iscrizioni, poi io mi prendo, diciamo, una notte di riflessione, perché purtroppo o per fortuna il numero è limitato. Cioè, voglio lavorare con un gruppo relativamente piccolo perché c'è bisogno, o solo 3 giorni dobbiamo fare un sacco di cose, quindi non può essere un gruppo ampio. Mi chiedono se sono possibili degli uditori. Vediamo. Beh, sarebbe meglio no, perché vediamo gli uditori di concentrazione e di cose che devono essere fatte in un tempo molto, diciamo, piccolo, per cui sarebbe meglio esserci. Infatti io ho anche chiesto ai partecipanti al laboratorio, diciamo, la condizione unica è esserci tutti e 3 giorni per tutto il tempo. Molto corretto. perché, sì, perché in effetti è importante. Certo, certo, sono d'accordo, la presenza costante a un laboratorio è fondamentale. No, poi soprattutto un laboratorio di soli 3 giorni deve essere veramente immersivo, ecco. Va bene, non so se qualcun altro qui vuole fare qualche domanda a Roberto, ma tanto ci vedremo presto a Roma e te ne faremo tante dal vivo. Perfetto, non vedo l'ora di essere con voi e un saluto a tutti. Grazie, a presto, un abbraccio. Ciao, ciao, un abbraccio grande, ciao. E niente, purtroppo è arrivato di nuovo il momento dei soldi e il momento dello sponsor. Alle porte di Roma trovi l'ecovillaggio, la giostra, dove puoi autocoltivarti l'orto, puoi costruire la casa sull'albero dei tuoi sogni. Vuoi sognare su un albero? C'è la casa sull'albero della giostra. Ah, come si respira bene. È a 2 passi da Roma, sull'Ardiatina, poco dopo il raccordo anulare. Ed eccoci qua, questo era l'Eco Villaggio La Giostra, che ringraziamo nuovamente e a cui invitiamo tutti quanti ovviamente di andare a visitare e di scoprire questo mondo fantastico. E ora veniamo, diciamo, a così, all'aggiornamento dei prossimi appuntamenti del Teatro Valle Occupato. Questa qui, devo dire, è una settimana, insomma, abbastanza ricca. Ricordo che ci sono tutti i giorni sempre le prove aperte del Romeo e Giulietta diretto da Valerio Binasco, per chi ama Shakespeare e soprattutto per chi ama Shakespeare rivisto, diciamo, in una chiave abbastanza rock and roll, se così si può dire, ma mantenendo tutto intatta la poesia e ovviamente i versi shakespeariani. Invitiamo tutti quanti a venire ad assistere alle prove, che sono, devo dire, molto belle, sono, diciamo, un vero e proprio spettacolo, insomma, perché si può assistere al lavoro degli attori e al lavoro del regista tutti i giorni dalle 10 alle 18. Un paio di attori della compagnia di Binasco ci hanno regalato 2 spettacoli. Uno è andato in scena ieri sera, La guerra di Clam, e invece questa sera debutterà al Teatro Valle Occupato lo spettacolo Me ne vado, di e con Marcella Serli, che per chi ha già visto Romeo e Giulietta è quella che fa la madre di Giulietta, un'attrice bravissima, devo dire, e che ci ha portato questo spettacolo abbastanza particolare, perché lei è un'attrice che lavora molto sull'improvvisazione e ha sviluppato una tecnica particolare per cui lei, diciamo, scrive gli spettacoli ma lascia poi gran parte dello spazio anche alla possibilità di improvvisare e quindi di interagire col testo in una maniera totalmente così inaspettata. Quindi vi invitiamo tutti quanti questa sera a vedere lo spettacolo Me ne vado di Marcella Serli. E domani sera invece ci sarà una grande serata dedicata a Ingmar Bergman, in cui presenteremo un libro che si chiama Il maestro raccontato, scritto da Francesca Picozza, che è una biografia di Ingmar Bergman raccontata attraverso la voce delle persone che hanno lavorato con lui, quindi attraverso la voce degli attori, dei parenti, dei tecnici che hanno lavorato con lui. Io l'ho letto, devo dire, è un libro, insomma, ovviamente per gli appassionati del genere, però per chi ama il cinema, il teatro e chi ha amato Ingmar Bergman troverà questa serata molto interessante, perché poi verrà proiettato un bellissimo documentario che si chiama, è un documentario di Stig Björkman, il documentario si chiama proprio Fanny e Alexander, proprio tratto dall'omonimo film del maestro. Alla serata parteciperanno anche ovviamente l'autrice del libro, che racconterà il libro più propriamente. Ci sarà lo stesso Valerio Binasco, che parlerà in qualche modo del suo rapporto con Bergman, e più altri ospiti che, insomma, intratterranno il pubblico per circa un'oretta intorno alla vita e alle opere di Ingmar Bergman. Diciamo alle ore 22 poi di sabato ci sarà questa fantastica Tube Election Night, che è una serata organizzata con la redazione e il gruppo di Fuori Orario, il mitico Fuori Orario di Rai 3 e di Ghezzi. Ci sarà Ghezzi stesso, ovviamente, più tutti i suoi collaboratori, che hanno organizzato questa nottata al Teatro Valle in attesa dei risultati delle elezioni. Una nottata però ovviamente a base di cinema. Io, se vi dovessi spiegare che cosa accadrà in quella serata, vi giuro che non ve lo so dire, perché è stato impossibile capire razionalmente quello che potrà accadere in questa serata. So che loro, il gruppo di Fuori Orario, ha elaborato una serata abbastanza folle e situazionista, così come spesso capita a loro. Ci sarà sicuramente molto cinema, questo sono sicuro, ma non vi so dire sotto quale forma verrà proposto questo cinema. Comunque, per chi è appassionato di Fuori Orario, di Ghezzi, di cinema, per tutti i cinefili e i nerd, l'appuntamento è per sabato alle ore 22. Dopodiché, invece, quello che accadrà prossimamente, e qui chiudo, per le prossime settimane, le cose più importanti che vi voglio segnalare sono il laboratorio di Antonio Latella sulla menzogna, un laboratorio di drammaturgia, e alla quale poi allegherà, se così si può dire, uno spettacolo che regalerà al Teatro Valle, e poi soprattutto il documentario Da Brook a Brook del figlio di Peter Brook, Simon Brook, ritratto privato di un uomo e contemporaneamente il ritratto di un uomo al lavoro. Bene, io volevo soltanto, se posso, sì, dire, vai. I nomi della serata Election. Della serata, sì. Tube Election Night. Allora, dico soltanto i nomi di chi parteciperà: Enrico Ghezzi, Antonio Rezza, Carlo Interman, Andrea Cortellessa, Iona Anna Zaro, Bruno Roberti, Roberto Silvestri, Emanuele Trevi, Maria Grazia Calandrone, Maurizio Elettrico, Gabriele Frasca, Cagnolo Guercio, Gilda Policastro, Vincenzo Ostuni, Gabriele Pedullà, Mariano Baino, Stefano Chiodi, Pablo e Shauren, questi sono nomi, Beppe Sebastian, nomi di 5 Sparagiuri. Grazie. Io so anche una configurazione che avrà questa serata, ecco. Questa è ancora, è inedita. Praticamente Enrico, come suo solito, quando viene al Valle si mette in un palchetto al buio, perché non vuole essere visto ma vuole essere solo sentito, quindi avrà il microfono fuori sync, ovviamente, ci proviamo e leggerà un testo di Kafka che dice che è molto adatto per il giorno prima delle elezioni, dei risultati alle elezioni, e nel palchetto subito prima del suo, quindi molto vicino al suo, ci saranno 8 persone che lo osservano mentre legge. E qui questo è solo l'inizio della serata, questo è l'inizio, eh? Sì. Quindi venite con delle scorte di alcol dietro. Adesso lasciamo momentaneamente la parola di nuovo al nostro sponsor e poi ci salutiamo. Ma cosa si mangia all'ecovillaggio La Giostra? Si mangia sicuramente la salsiccia col marmellata di more, la borragine che cresce spontanea da tutte le parti. E soprattutto, per entrare all'ecovillaggio La Giostra, devi prendere l'asfodelo. Qua, eccoci qua, questo era di nuovo il nostro sponsor che ci ha regalato questo messaggio proporzionale, e ricordo anch'io a tutti quanti di mangiare l'asfodelo, perché fa bene alla mente, fa bene al corpo e fa bene alla salute, no? Giusto? Anche alla pelle. Alla pelle. Ma cos'è la sfodelo? Vogliamo rivelare? Sfodelo è una pianta molto antica, tra l'altro si ricorda che le foglie venivano usate per portare la burrata, erano quella pianta che si mette intorno al formaggio. però ha anche delle caratteristiche interessanti nelle radici, che sono dei tuberi commestibili in parte, e nel fiore, che è molto carino, è bianco e striato di lilla. È la pianta della resurrezione, è vero, secondo gli antichi romani. Veniva posto proprio sopra ai luoghi sacri, proprio perché era simbolo. Poi prima o poi capiremo perché stiamo parlando di questa giostra. Diamo solo per ora degli accenni. Mi sa che in linea c'è Antonio, vitali. Può essere Antonio Rezza? La giostra di Antonio. Rezza. Pronto, sì. Ciao, intanto. Sei in diretta su... Rispetto a che cosa, ciao. Bravo. Intanto perché sono contento di... Ciao, intanto io mi metto in sospetto, capisci? Eh sì, lo so che non, sei... per il ciao, ma figurati, per l'intanto. Santi, intanto ben ritrovato su Radio Onda Rossa, va bene così? Continui a usare l'intanto. Oggi l'ha preso così. Senti, no, stavamo parlando della serata Tube Election Night al Teatro Valle Occupato di sabato sera dalle 22. Sì. Ho letto che ci sarai pure tu, allora ho detto, ma sentiamolo. No, non è che non ci siamo noi, non so come, vabbè, però insomma, allora noi dobbiamo fare questa proiezione del documentario che abbiamo fatto io e Flavia su Valle Occupato. Questa cosa del 20, io sto influenzato tra l'altro. Ah. E questa è una grande notizia, perché succede molto raramente che io non stia bene. Ma infatti non me l'aspettavo da te. Ma nemmeno io, non c'è, l'umanità che non se l'aspetta. L'umanità non si aspetta che io possa stare poco bene certe volte. E quindi spiegami un attimo. Spiegami un attimo, cioè ci sarà il vostro documentario, ma te non ci sarai fisicamente. No, allora Tommaso Tonieri ci ha chiesto, no, il documentario lo facciamo una serata apposta. Ah, okay. Sì, quella è un'altra serata. Diretta con Paolo Giovannuccio. Sì, sì, ciao Antonio, io sono Daniele. Con Fulvio Molena, appunto, con Daniele Natali, stiamo cercando di... A me non mi nomini mai. Chi c'è? Siamo Daniele, qui, poi c'è Emiliano. Daniele Natali, ho detto. Sono addirittura io, sì. Emiliano, ho detto, non lo dici Paolo mai. Giovannucci, Fulvio Molena, Daniele Natali, non te nomino. Ero io che parlavo, Emiliano. Emiliano? Niente. Emiliano non ti conosce. Oh, Emilia, ciao, scusa, certo. Emilia. I quattro, diciamo, i tre del Valle, i tre di Perù. No, allora noi siamo stati, allora Tommaso Tonieri mi ha chiamato e voleva un contributo nostro, mio e di Flavia, ha girato, noi non possiamo esserci perché non ci siamo. Adesso stiamo cercando, se riusciamo a fare, a prendere una cosa, mi ha detto Tommaso Tonieri, anche da YouTube. Sì. Però noi non ci siamo il 23, non vorrei che poi la gente pensa che ci sia la proiezione del Valle Occupato, perché sennò poi non sappiamo la gente quando la facciamo, se stanno lì, perché noi stiamo dicendo a tutti che andremo al Valle a proiettare il Valle Occupato. Se sanno che ci siamo, magari si aspettano la proiezione. No, ma questo è la proiezione, è un altro discorso. No, noi ti abbiamo chiamato perché parlavamo di Enrico Ghezzi e della serata che farà sabato 23 lì da noi, capito? Prima, ma tutto questo è in diretta, sta andando? Stiamo andando in diretta, sì, facciamo un po' così. La chiacchierata che... Come ci pare, capito? Cioè, veramente Raponi è proprio autolesionista. Banditi. Senti Antonio, ma a proposito di elezioni, non c'avevi in mente una tua candidatura? Ma non ci vado a votare, quindi... Che grande che sei! Quanto sono d'accordo! Non ci vado da un bel po', dal 90. Ho fatto tutte le fotografie però fuori ai seggi dove non entravo. C'ho un paio di elezioni con la foto mia fuori al seggio, dove dentro la macchina, dove non entravo. Andavo lì, mi mettevo in macchina, mi fotografavo e non entravo. E quindi pure quest'anno non vai a votare? Quest'anno come faccio quest'anno? Io sono la giornata piena. Come faccio io? Ma questi vengono mai a casa mia? No, effettivamente. Cioè questi che io dovrei votare, no? Sì. Trovano 10 minuti per venire a casa mia? No, penso proprio di no. No. Oddio, forse no. I grillini sì, forse... No, speriamo no. Speriamo proprio di no. Magari mi vengono a fare il sermone che casa mia è disordinata. E comunque si può annullare il voto, c'è chi pensa di noi di andare a votare, di andare là davanti e mangiarsi la scheda direttamente di fronte allo scrutatore, quindi... Ah, non può essere toccata. Forse questa è un'idea. Ma perché non può essere toccata la scheda? Scusa. Se la tocchi, vale che tu hai accettato il fatto di votare, quindi vanno al premio di maggioranza. Invece devi andare lì, non toccare la scheda e dire: io rifiuto. Me la sarei potuta mangiare. Me la sarei voluta mangiare, ma neanche questo, neanche la soddisfazione di mangiarla. Beh, geniale, no, Antonio, sta cosa che non si può toccare la scheda. Cioè, se tocchi solo la scheda, sei automaticamente, diciamo, dentro il processo della votazione. Cioè, se la tocchi, sì, è come se avessi votato? Sì, cioè, non come se avessi votato, però, diciamo, la scheda viene... viene annullata, non conteggiata come scheda bianca, credo. Esatto. Come se la tocchi, ma perché quando te la danno non la tocchi? Eh no, appunto, se tu... tu la prendi e la metta dentro al posto mio. Esatto. Se vuoi rifiutare il voto, non la tocchi, dici, ehi tu scrutatore, mettila dentro la cassetta delle elezioni. Ah, io non la tocco, lo scrutatore. Io ho votato, io quando ho fatto lo scrutatore nell'86, mi dicevano che in caso di voto, quando si facevano lo spoglio, no? In caso di voto dubbio, bisognava darlo alla lista... che ti pagava la giornata da scrutatore. Quindi, insomma, era appena maggiorenne, quindi appena diventi maggiorenne se ne approfittano. Quindi ci lamentiamo tanto, la pedofilia, tutto quanto, ma qua il problema è che se ne approfittano quando diventi maggiorenne. Va bene. Senti, Antonio, quando ci vediamo? Spero più tardi possibile. Benissimo. Da voi, spero mai, però poi la vita è ingrata e quindi... è la vita ingrata. No, dicevo, per questa serata al Valle, cercheremo di fare adesso questo video, però non so se ci riusciamo, e se non ci riusciamo ci concentriamo per la data che sarà a questo punto, dopo che torniamo da Milano a fine marzo, per fare questa proiezione, questa asta al buio, insomma, questa serata. Allora, ci sarà modo di riparlarne, perché come tu sai bene il Teatro Valle è occupato, il giovedì dalle 3 alle 4 fa la sua trasmissione qui a Radio Onda Rossa, per cui ti chiameremo, insomma. Va benissimo. T'abbraccio. Tra l'altro volevo dire una cosa. E dilla. Che ho detto già a Paolo, però non so se c'era anche Daniele quel giorno, che il 17 marzo noi presenteremo questo film sul Valle occupato a Milano allo Spazio Oberdan. Ah sì sì, me l'hanno detto, sì. E quindi domani, no, perché Daniele è stato qui poi anche a fare la... quando abbiamo chiuso il film di Perugia, domani facciamo qualche altra correzione colore, insomma, e lo portiamo a Milano. Fantastico. Bene, poi ecco, magari manderemo l'informazione, così si sa che anche a Milano, cioè noi cerchiamo di occupare Milano. Così li sgomberano questi balli, capito? L'obiettivo è farli sgomberare. Senti, un abbraccio anche a Flavia, Antonio. Grazie a tutti, ci sentiamo prestissimo. A prestissimo. Ciao Daniele, ciao Emiliano. Ciao. E va bene, e allora noi a questo punto salutiamo tutti quanti, ci lasciamo con l'ultimo appuntamento pubblicitario e diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao! All'Eco Villaggio La Giostra c'è sempre il sole, non piove mai, ci crescono i girasoli, cazzo! Ma può succedere di tutto, un momento di felicità improvviso, esplosioni di entusiasmo... rituali asfodelici, perché per entrare all'Eco Villaggio La Giostra devi mangiare l'asfodelo. Il rituale dell'asfodelo ti accoglierà, vieni anche tu a ricevere il rituale dell'asfodelo alla giostra. Alla giostra, vieni alla giostra.